L'attore americano James Stewart deve il suo successo presumibilmente al fatto di aver cominciato la carriera in teatro. Fu notato nel 1947 mentre recitava una commedia da cui 4 anni dopo ricavarono un film, ancora con Stewart nel ruolo del protagonista. Si intitolava Harvey. L'ho visto, ma non ne ricordo quasi più nulla, se non che il protagonista parlava con un coniglio invisibile, mettendosi in tutta una serie di guai e di situazioni imbarazzanti. Harvey mi spiegò per la prima volta che nel tipo di mondo che frequentiamo parlare senza un evidente interlocutore non conviene. L'assunto discende dal fatto che gran valore si dà al controllo di sé, o almeno a quelle parti di sé che si presume siano facilmente controllabili. Come gli sfinteri e i rossori, sembrerebbe imperativa la necessità di controllare la parola e i ritmi della conversazione. Chi trasgredisce sembra fatto apposta per attirarsi gli stigmi sociali, non deve trovare simpatia attorno a sé, non deve trovare lavoro, né tantomeno essere investito di responsabilità. In pratica, chi parla da solo è il diverso da evitare, è uno che ha mollato i pappafichi della saggezza e della normalità, è uno la cui cabina di regia comincia a fare acqua. L'aspetta il ricovero coatto o la deriva ai margini dell'impero. Il metrò e le strade della città sono territori particolarmente idonei per incontrare la persona che, in mancanza di meglio, si rivolge a se stessa. Deserti di folla dove la solitudine pesa nel contrasto con la moltitudine e dove l'interiorità, cercando un briciolo di conforto, supera inavvertitamente i propri confini. Il nostro modo di vivere qui non può che produrre queste ultime difese, l'analgesico autarchico di una parola buona, la propria. L'altra sera sono sull'autobus, semivuoto come tutti i mezzi pubblici dopo una certa ora che arriva ben prima di quanto sarebbe lecito supporre. Sale un tizio con una sigaretta in bocca, un giornale in una mano ed un sacchetto di plastica nell'altra. Se ne va subito in fondo dove non c'è nessuno e i pochi presenti come l'autista hanno altro per l'anima che far rispettare i regolamenti sul fumo nei mezzi pubblici. Dopo un po' sento una voce alle mie spalle, una voce alta, e mi volto, e con me lo fanno anche i pochi altri sull'autobus. È quello là in fondo, stravaccato sui sedili con il giornale aperto in mano, che sta parlando. Modula anche i toni, accompagna anche le parole con minimi gesti appropriati. Sembrerebbe proprio che stia parlando con qualcuno. Ma fuma, ma è sera, ma è là stravaccato. Per il principio che una trasgressione tira l'altra e che bastano due elementi per fare uno stile coerente, ecco che io come gli altri sull'autobus siamo pienamente convinti che è bene lasciar perdere, che è bene distogliere lo sguardo, anzi dargli la schiena, ad evitare guai peggiori. Parla da solo? Uno che si comporta come si comporta costui è del tutto naturale che anche parli da solo. Non sa sottostare ai regolamenti dei mezzi pubblici di trasporto e dunque è abbastanza ovvio che neppure controlli del tutto se stesso. Lo schema interpretativo suggerito dai primi elementi balzati all'occhio spontaneamente si adatta a tutto il resto. Così di solito funziona il nostro modo di percepire gli altri. Ci basta poco per saziare il nostro bisogno impellente di metterci un'etichetta sopra. Per cambiare schema interpretativo poi di cose ne devono accadere e c'è anche il caso di quello che, considerato una volta in quel determinato modo, è considerato nello stesso identico modo per tutta la vita. Al tizio sull'autobus l'altra sera è andata bene, è stato salvato da un miagolio, ci rigiriamo tutti e ci accorgiamo che da quel sacchetto di plastica ne è sortito un bel gatto nero, affettuosissimo, moderatamente fiducioso, appena un poco preoccupato di trovarsi alla mercé di un mezzo pubblico. I discorsi del viaggiatore erano per lui. Il contraddittorio era tutto mirato a convincerlo che prima o poi l'esperienza di un viaggio serale sull'autobus va pur fatta, anche se si è felini. E di colpo il suo padrone ha ricambiato stato sociale. È tornato passeggero qualunque con tutto il diritto al proprio anonimato. Ai gatti è legittimo parlare, come ai bambini di pochi mesi, come ai vecchi sordi, come ai malati terminali, come allo straniero con cui non si condivide una sola parola, o anche alla piantina di basilico sul balcone. A chi che sia possa vantare il barlume di vita, insomma, ma non a se stessi. Ecco, non a se stessi perché la morale del vivere associato esige che la persona sia una ed indivisibile, pienamente ed integralmente in un sé al quale, una volta scappati, non c'è ritorno. Mantenendo una certa distanza dalle persone interessate, sembrerebbe di poter dire che negli ultimi tempi coloro che parlano a se stessi siano aumentati a dismisura. Se ne potrebbero trarre conclusioni socio-psicologiche amare: un tracollo dei rapporti umani nella civiltà del benessere gastrotecnologico e del malessere intimo animale, la difesa del proprio spazio vitale escludendo che sia d'altro. Non sarebbero conclusioni ingiustificate, ma andrebbero, per così dire, liberate da una tara. Se si ha la pazienza di accorciare quella distanza che ci separa dalla persona che per gesti, atteggiamenti e parole ci sembrava parlasse a se stessa, in molti casi ci si accorge che sta parlando al telefonino cellulare, che per qualcuno è la protesi dei suoi rapporti sociali.